Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.10, buonasera a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a questo appuntamento con Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Una giornata che intanto si sta concludendo a due facce per quello che riguarda la borsa, perché sono prevalentemente positivi i listini del vecchio continente. Per la verità c'è una discreta prudenza su Parigi e Londra, che sono orientate verso la parità. Francoforte, piuttosto positiva da questa mattina, mantiene il suo rialzo, più 0,8%, Milano invece negativa per lo 0,8%. Pesano tanti fattori, alcune singole storie chiaramente di Piazza Affari, ma anche i dati di cui abbiamo appena sentito nel giornale radio sul PIL, sulla produzione industriale. La nostra economia non ce la fa a riprendere il sentiero della crescita e chiaramente ne risente anche la borsa. La borsa americana invece sta andando benino, è debole, ma in ogni caso il quadro è positivo. Peraltro oggi è arrivata una buona notizia: ricorderete la clamorosa decisione di Standard & Poor's un anno e mezzo fa di declassare il debito americano. Beh, oggi parzialmente l'agenzia di rating ci ha ripensato, perché ha rivisto in senso positivo l'outlook appunto per il debito americano. Ne parleremo nel corso della puntata. Però in apertura ci occuperemo con un approfondimento soprattutto sull'importante processo che prende il via domani in Germania con l'audizione presso la Corte Costituzionale tedesca della Banca Centrale Europea. Il tema è il piano di Mario Draghi per arginare la crisi del debito sovrano. Ricorderete la sua decisione di avviare il cosiddetto processo, appunto il procedimento OMT, quel piano che prevede che la Banca Centrale Europea intervenga con acquisti illimitati sul mercato dei titoli di Stato appunto dei paesi in difficoltà. E beh, c'è stato un po' di tremore nelle ultime ore, perché la stampa tedesca aveva parlato di una possibile decisione da parte della Banca Centrale Europea di mettere un tetto allo scudo antispread, una indiscrezione che è stata prontamente smentita dalla Banca Centrale Europea, ma che in ogni caso è servita ad arroventare il dibattito alla vigilia proprio di questo percorso così importante che prende il via, come vi dicevo, all'alta corte tedesca e che si dovrà concludere a settembre appunto con una decisione definitiva appunto della Corte Costituzionale della Germania sulla legittimità dello scudo appunto antispread. È una questione molto complicata, ma qualcuno ha subito detto per fortuna che ieri era domenica e che i mercati erano chiusi, altrimenti questa indiscrezione avrebbe rischiato di far riesplodere di nuovo lo spread, e noi non vogliamo sicuramente tornare di nuovo a quella estate rovente di due anni fa. Questo è un tema che approfondiremo. Oggi è stata poi la giornata a Milano dell'Assemblea di Assolombarda. Vi ha partecipato il presidente di Confindustria, Squinzi, sentiremo le sue indicazioni. C'era anche il ministro del lavoro, Giovannini. Chiaramente gli occhi sono puntati sul tema occupazionale italiano. Gli industriali continuano a chiedere interventi. Il ministro ha detto: faremo quello che potremo fare, soprattutto per la popolazione giovanile. Sentiremo anche le indicazioni appunto interessanti che sono venute da questa assemblea proprio nella giornata in cui l'Istat ha comunicato i suoi dati terribili sulla produzione industriale italiana e sul prodotto interno lordo del nostro paese, che, come vi dicevo appunto in apertura, hanno avuto anche un impatto piuttosto forte oggi in borsa. Questi ed altri i temi che affronteremo in questa puntata di Focus Economia. Vi ricordo che, come sempre, potete scriverci degli sms al 349-238-6666. Adesso rapidamente le notizie in breve di questa giornata. Cominciamo come sempre con l'andamento delle materie prime sui mercati internazionali. Questa mattina in Asia l'oro era in recupero rispetto allo scivolone di venerdì e quotava $1,388 l'oncia, spinto dai dati economici deludenti che sono stati diffusi nelle ultime ore appunto dalla Cina, che ancora una volta spingono gli investitori verso i beni rifugio. Il petrolio, il greggio a New York, ha aperto in calo a $95,34 al barile. E anche se la borsa europea oggi è contrastata e non ha una direzione precisa e univoca, soprattutto su tutti gli indici, stamattina è andata invece molto bene a Tokyo, che è rimbalzata sensibilmente rispetto alla turbolenza delle ultime giornate e ha chiuso con un rialzo del 4,94%. È stata sicuramente aiutata anche dai dati sull'occupazione americana che sono stati diffusi venerdì scorso, solidi ma non tanto da aprire a modifiche nella politica monetaria da parte della Banca Centrale Americana. Ma soprattutto ad aiutare Tokyo è stato il dato sul prodotto interno lordo giapponese relativo al trimestre gennaio-marzo. C'è stata una revisione di questo dato da più 3,5% della prima stima al più 4,1% appunto del dato definitivo. E intanto, come vi dicevo prima, oggi notizie buone arrivano anche dagli Stati Uniti, dove l'agenzia Standard & Poor's ha rivisto al rialzo l'outlook appunto degli Stati Uniti, passandolo a stabile da negativo. Il mercato obbligazionario. La Germania stamattina ha collocato titoli di Stato a 6 mesi per 3 miliardi e 230 milioni di euro, registrando un rialzo del rendimento medio, sentita che a livello lo 0,0231% dallo 0,0013 dell'asta di maggio. La domanda è stata molto alta, si continua a correre ancora verso i Bund appunto tedeschi. La domanda ha raggiunto i 5 miliardi e 435 milioni di euro, l'importo massimo offerto dalla Germania è stato di 4 miliardi. E intanto in questa giornata, come dicevo, un po' nervosa sul versante obbligazionario proprio per queste notizie che arrivano dalla Germania, sulle quali tra poco approfondiremo appunto i contenuti, lo spread fra BTP e Bund, il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e il paritetico tedesco, ha sfiorato stamattina di nuovi 270 punti base. Il differenziale appunto tra i titoli spagnoli e tedeschi è risalito invece a quota 35, con il rendimento del titolo spagnolo a 10 anni al 4,53%, l'italiano invece questa mattina era al 4,21. In Italia si conferma il cambiamento positivo nello slancio dell'attività economica, come già riscontrato ad aprile e maggio. E quanto emerge dal rapporto dell'OCSE di giugno sul superindice economico, in cui si riscontra un moderato miglioramento della crescita nella maggior parte delle grandi economie. A dispetto però di questo commento dell'OCSE, per la verità le cose in Italia invece, come sapete, non vanno affatto bene. Allora, quali sono state le statistiche diffuse stamattina dall'Istat? Intanto abbiamo avuto appunto la variazione definitiva acquisita del PIL per il 2013, pari al meno 1,6%, cioè la variazione acquisita del PIL per quest'anno fino a questo momento, che sarebbe dell'1-6%, una contrazione dell'1,6%. Nel primo trimestre del 2013 il PIL è complessivamente diminuito dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% rispetto ad un anno fa. Con questo calo dello 0,6% congiunturale nel primo trimestre di quest'anno si conferma per il PIL italiano il settimo calo consecutivo a livello congiunturale. Quali sono i settori che sono andati particolarmente male? I dati sono negativi per tutti i settori di attività, fatta eccezione per l'agricoltura, che naturalmente poi è stata bastonata di recente con il maltempo. Il valore aggiunto ha registrato variazioni negative del 3,6% nelle costruzioni, meno 0,7% nell'industria, meno 0,4% nei servizi, mentre è aumentato e quindi più 4,7% nel comparto agricolo. In termini tendenziali, il calo è del 6,9% nelle costruzioni, del 3,2% nell'industria, dell'1,4% nei servizi, aumento dello 0,1% appunto invece in agricoltura. Il dato sul PIL naturalmente porta con sé anche altre statistiche, altri dati. In particolar modo ancora monitoriamo da molto tempo con grande attenzione l'elemento della spesa delle famiglie, che è diminuita di 0,5 punto percentuale rispetto al trimestre precedente e del 3,4% rispetto ad un anno fa. Nel primo trimestre di quest'anno, questa mattina veramente l'Istat ne ha diffusi tanti di dati, le esportazioni sono calate rispetto al trimestre precedente dell'1,9%, segnando il peggior dato dal primo trimestre del 2009. E la produzione industriale, invece, cosa è successo su questo versante? Che sempre ad aprile 2013, in questo caso abbiamo il dato mensile, è diminuita dello 0,3% rispetto a marzo e del 4,6% rispetto ad un anno fa. Intanto il Centro Studi di Confindustria stima un aumento della produzione industriale dello 0,3% in maggio su aprile, per cui questa è la stima di Confindustria, vediamo l'Istat cosa dirà tra qualche settimana, ma avverte che il quadro nel complesso resta negativo per gli economisti di Confindustria. È molto probabile una ulteriore flessione congiunturale nel trimestre in corso dopo 8 trimestri consecutivi di arretramenti. A maggio si attesta al meno 24,9%. La distanza dal picco di attività pre-crisi, cioè dall'aprile del 2008. Il dato sulla produzione industriale ci dice quanto la crisi sia grave e quanto stia colpendo duro alcuni settori. Così il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, questa mattina arrivando all'assemblea di Assolombarda al microfono di Valeria De Rosa. Sufficiente a invertire complessivamente l'andamento. Questo vuol dire che abbiamo bisogno il prima possibile di recuperare fiducia, di spingere le imprese che sono impegnate per esempio sui mercati internazionali a diventare più competitivi, e quindi il segnale è a lavorare esattamente nella direzione in cui il governo sta lavorando. Come sapete, stiamo predisponendo gli interventi che entro il mese di giugno avranno sia delle componenti normative sia delle componenti finanziarie per lo stimolo di nuova occupazione, e quindi a fare il prima possibile. Questo pacchetto va proprio nella direzione di stimolare in particolare l'impiego di giovani, l'impiego di donne, l'impiego di persone che sono uscite dal circuito produttivo. Abbiamo bisogno di ridare fiducia a tutte le famiglie, che non solo l'impegno del governo, ma direi soprattutto l'impegno delle imprese può cambiare l'attuale quadro. Come vi dicevo, all'assemblea di Assolombarda, poi tra l'altro nel corso della trasmissione vi farò sentire anche le altre dichiarazioni del ministro Giovannini e altre interviste che abbiamo raccolto, e ce n'è stata una dichiarazione piuttosto forte da parte del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, commentando la crisi generale, ha detto: l'Europa si è accanita con una politica di rigore a dir poco miope, dimenticando che solo la crescita può sostenere il rigore finanziario. Sentiamo Squinzi, poi da questa sua dichiarazione partiamo con il nostro primo approfondimento di oggi. L'Europa si è accanita con una politica di rigore, a dir poco miope, dimenticando che solo la crescita può sostenere il rigore finanziario. A riprova di scelte discutibili di politica economica, c'è il fatto che il Paese considerato più competitivo, che ha adottato tutte le riforme necessarie nei tempi giusti, stia crescendo soltanto dello 0,4% secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, e tutti sappiamo che sto parlando della Germania. E come se non bastasse, e questo faccio fatica ad accettarlo, l'Europa interpreta non correttamente i mali italiani, che pure esistono, tanto che negli ultimi mesi ho dedicato molto lavoro per contrastare le tesi che accompagnano i documenti ufficiali sull'Italia. Cambio di colonna sonora per annunciare appunto il cambio di argomento. Per la verità non ci distacchiamo molto dalle dichiarazioni del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, anche se l'appuntamento del quale parliamo adesso inizia domani in Germania, dove la Corte Costituzionale appunto di Karlsruhe inizia il cosiddetto processo agli OMT, ovvero la misura monetaria di maggior successo negli ultimi tempi, come l'ha definita lo stesso presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, quella che al solo annuncio ha consentito al mercato obbligazionario di calmarsi un anno e mezzo fa, e anzi un anno fa, perché è successo praticamente, questa decisione è stata presa la scorsa estate. Il tema è l'acquisto illimitato per i paesi in difficoltà di titoli di Stato a determinate scadenze, e lo scudo antispread l'hanno definito anche in questa maniera. Il tema adesso è che cosa deciderà la Corte Costituzionale. È una decisione legittima da parte della Banca Centrale Europea? Io ringrazio e saluto per essere con noi il professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi, editorialista della Stampa. Professor Bruni, buonasera. Buonasera. Allora, cosa dobbiamo aspettarci intanto dalla Corte Costituzionale tedesca? Qualche indicazione che farà infiammare di nuovo lo spread? Poi parleremo anche delle indiscrezioni del fine settimana sulla stampa tedesca, che hanno rischiato di farlo infiammare davvero di nuovo il differenziale fra Italia e Germania. Ma no, Speriamo di no. Innanzitutto questa decisione dovrebbe essere poi presa, resa pubblica dopo le elezioni tedesche, quindi in un momento, in settembre, sì, diciamo, sì, meno drammatico e in cui ci sono meno scrupoli, diciamo, politici interni. Quindi io penso che alla fine si tratterà di una decisione che non, diciamo, non ostacola l'efficacia di questo strumento. Le previsioni che si sentono nell'aria, che però francamente non so su cosa esattamente si basano, è che si tenterà di esaminare la possibilità di porre un limite quantitativo a questi interventi, cioè le OMT di per sé saranno considerate lecite, ma potrebbe non essere considerato compatibile con il trattato il fatto che sia un sostegno illimitato. Questo da un certo punto di vista non ha senso, perché gli interventi antispeculativi a breve sono, per definizione, devono essere illimitati, perché altrimenti i mercati tentano di testare, diciamo, i limiti, quindi non. D'altra parte si può mettere un limite talmente alto che dal punto di vista formale, diciamo, salva l'operazione, però nella sostanza non cambia niente, perché è talmente elevato che c'è spazio per fare interventi. Vedremo. Il limite del quale si è parlato nelle indiscrezioni della stampa tedesca di questi giorni è stato di 524 miliardi di euro. Va segnalato che fino a questo momento i titoli di Stato che sul mercato secondario la Banca Centrale Europea ha comprato, appunto, per sostenere i paesi in difficoltà sono stati circa 218 miliardi per quello che riguarda il valore nominale, 208 miliardi il valore a bilancio invece della Banca Centrale Europea. Ed è l'Italia il paese sul quale, appunto, la BCE è intervenuta maggiormente. Le indiscrezioni, appunto, del fine settimana sulla questione di questo tetto, professor Bruni, qualcuno ha detto per fortuna che ieri era domenica e i mercati erano chiusi, altrimenti la notizia diffusa dal Frankfurter Allgemeine Zeitung, subito smentita dalla BCE, avrebbe potuto rialzare la tensione sui titoli del debito sovrano. Secondo lei, se fosse circolata oggi, questa notizia avrebbe avuto questo impatto? Ma può essere, ma si tratta appunto di indiscrezioni che non si capisce come arrivino e quali siano le origini e le basi. Insomma, credo che la Corte tedesca sia abbastanza discreta da non essere letta, da non mettere in circolazione queste notizie. Allora, domani presso l'Alta Corte tedesca, appunto, come inizia questo esame di questa, come dire, decisione della Banca Centrale Europea? Poi ci sarà una decisione definitiva a settembre, come dicevamo. Domani viene sentito proprio un esponente della BCE, è il rappresentante tedesco Jörg Jasmussen, appunto, che rappresenterà la posizione dell'Eurotower sul piano OMT di fronte alla Corte di Karlsruhe. E oggi c'è stata anche questa dichiarazione del ministro delle finanze tedesco Schauble, che ha detto: io credo che la Banca Centrale Europea si muova nel suo mandato, lo faccia nel modo giusto e con successo, e quindi sostanzialmente ha difeso la Banca Centrale Europea. Ma allora c'è o non c'è, e quanto vigore ha questa spaccatura, come dire, nell'ambito della Banca Centrale Europea, con ovviamente gli esponenti tedeschi che non si sa bene che posizione abbiano sull'OMT, ma non sono molto d'accordo, professor Bruni? Credo che si esageri un pochino queste tensioni, che probabilmente si limitano all'interno della Bundesbank. Probabilmente c'è qualcuno che è particolarmente fuori linea, ma io credo che alla fine, insomma, siccome qui è in ballo l'euro, dobbiamo ricordarci che queste operazioni sono state formulate, disegnate per difendere l'euro, che è anche la moneta dei tedeschi, quindi non sono fatti per salvare gli stati, tanto è vero che saranno ammessi a godere di queste operazioni solo i paesi che avranno chiesto al sistema europeo di stabilità monetaria, all'ISM, di essere supportati e controllati in modo particolarmente, diciamo, invasivo, perché si tratterà di paesi che saranno sotto osservazione, insomma, quindi c'è anche una giustificazione in meno per pensare che questi finanziamenti siano per salvare i paesi, sono per togliere quella parte dello spread che non è dovuta all'indisciplina dei paesi, all'eccesso di debito, ma a queste aspettative di rottura dell'euro più generale che che sono di responsabilità diretta della BCE, perché quindi io credo che anche questo fatto di essere sotto il controllo dell'ISM alla fine sarà un argomento tenendo conto poi che l'ISM è un meccanismo governato dai paesi, dai governi, siederà il ministro delle finanze tedesco in questo ISM, quindi saranno paesi sotto il diretto controllo della Commissione e del Consiglio. Insomma. Qualora di fronte alla Corte Costituzionale tedesca questi ricorsi appunto della Bundesbank dovessero essere respinti o giudicati appunto non opportuni, qualora la Corte Costituzionale tedesca decidesse che il piano MT della Banca Centrale Europea è legittimo e quindi appunto Draghi è legittimato a continuare a portare avanti appunto questa iniziativa, quanto ancora, professor Bruni, per aiutare l'Europa, l'economia, dovrà essere tenuta aperta appunto questa porta da parte della Banca Centrale Europea? Di per sé è un provvedimento strutturale che non ha termine logico, perché infatti non ha ancora dato luogo a nessuna operazione, è semplicemente una facility di riserva qualora sul mercato si diffondano delle aspettative ingiustificate di rottura dell'euro, quindi che di per sé è irreversibile. Quindi io penso che deve diventare strutturale, dice lei. Deve diventare strutturale. Passando secondo magari... me, se dovesse essere, a mio parere, dovrebbe addirittura liberarsi da questi rapporti bilaterali con l'ISM nel lungo periodo. Noi dovremmo essere difesi, l'euro dovrebbe essere difeso da questo, anche se per esempio l'incidente che suscita la speculazione capitasse altrove, per esempio in Cina, in America, una grossa banca americana che fallisce, un grosso crollo della crescita cinese, si diffonderebbe nel mondo paura, allora in Europa ci sarebbero delle speculazioni che tentano di colpire i paesi potenzialmente più deboli. E lì la banca centrale deve essere libera di inventarsi l'operazione in qualunque momento senza bisogno di... Però questa è la mia opinione. Ecco. Certo. Professor Bruni, io la ringrazio. Intanto le posso chiedere un giudizio invece su queste... che non c'entrano niente con l'Europa. No, c'entrano invece molto con l'Europa, perché abbiamo visto quanto le iniziative delle banche centrali abbiano movimentato in un poco, nel bene e nel male, anche l'andamento dei mercati finanziari. Queste iniziative che invece arrivano dal Giappone, che hanno dato un grande spolvero appunto alla borsa, poi c'è stata una marcia indietro molto fragorosa da una decina di giorni a questa parte, però abbiamo visto invece che il PIL giapponese ha ripreso a crescere. Non ci sono ancora chiaramente impatti diretti rispetto alle decisioni di politica monetaria che sono state prese, quelle straordinarie, ad inizio aprile, però sarà che in ogni caso le cose stanno riprendendo un po' a mettersi in marcia. Che ne pensa? Ma io penso che, diciamo, sono il supporto monetario anche molto aggressivo può essere utile quando si accompagna a un progetto di riforme strutturali di cui il Giappone ha un enorme bisogno da quasi 20 anni, e queste riforme sono credibili, sono formulate in modo chiaro, la gente si aspetta che avvengano sul serio. Allora se il supporto monetario si accompagna a queste cose può essere benefico e sostenibile, altrimenti gonfia i prezzi delle azioni e delle obbligazioni, rischia di creare bolle speculative, di destabilizzare tutto quanto e basta. Grazie professor Bruni per essere stato con noi, buona serata. Buonasera. Dalle parole ai fatti, allora, dal Giappone ci provano e speriamo naturalmente che ci si provi con concretezza anche in questo continente. Noi ci fermiamo adesso, c'è la nostra prima pausa pubblicitaria, poi andiamo alla borsa, una borsa che si sta chiudendo negativamente per Milano, il calo adesso è dello 0,8%, a tra poco. Focus Economia. E sono le 17.38, ancora buonasera da Deborah Rosciani e come sapete a quest'ora è tempo del racconto della giornata di borsa. Questa sera con noi per esaminare i casi del giorno Roberto Brasca, vicepresidente di A come A SGR. Brasca, buonasera e benvenuto a Focus Economia. Buonasera a tutti voi. Allora, abbiamo un bilancio negativo per Piazza Affari che chiude la seduta con un calo dello 0,8%. Alla fine cede anche Parigi, meno 0,21%, che ha tentato di aggrapparsi disperatamente per tutto il giorno alla parità. Francoforte più 0,6%, Londra ferma sulla parità. Wall Street in questo momento timidamente è positiva. Su Milano Brasca ritiene che abbiano pesato in maniera significativa i dati sulla produzione industriale e il PIL diffusi stamattina? Ma io credo che sulla giornata di oggi abbia pesato soprattutto la parte obbligazionaria, cioè l'allargamento dello spread dell'Italia rispetto alla Germania e anche una debolezza di fondo dell'obbligazione tedesca. Questo ha determinato un innalzamento dei tassi e quindi il mercato italiano, che è molto dipendente dal settore finanziario, dal settore bancario e del settore finanziario in genere, ne ha sofferto. Poi sui singoli titoli c'è stata qualche inciampo, vedi Tenecom, vedi Fiat, insomma. E infatti adesso racconteremo le singole storie. Intanto ha citato, appunto, parlando di Fiat, uno dei peggiori titoli, perché insieme a Monte dei Paschi entrambi hanno perso il 4,67%, per Telecom meno 4,48%, meno 4,39% per la Popolare dell'Emilia Romagna, meno 4,17% per la Popolare di Milano. A fare da contraltare a questi titoli, poi daremo qualche indicazione in più, Fondiaria e Saipem, che chiudono con un rialzo di oltre 3 punti. Andrei subito a raccontare le storie di Fondiaria a Brasca, perché tra l'altro quello che è successo oggi su questa compagnia di assicurazioni, appunto, si lega anche ad una dichiarazione che ha fatto, adesso le spiego il volo pindarico che ho realizzato, che ha fatto Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, all'assemblea di Assolombarda. Ha detto: se il rigorismo e l'austerità mettono in ginocchio la tenuta sociale e il patrimonio delle nostre imprese affinché altri possano fare shopping portandosi a casa i nostri pezzi migliori a prezzi di saldo, dobbiamo dire no. E infatti qua c'è Warren Buffett che ha messo gli occhi su Milano Assicurazioni. Sì, sì, beh, non è un volo tanto pindarico, mi sembra un ottimo collegamento. In effetti, noi stiamo facendo molto spesso gli italiani fanno un po' di tutto per essere della classe anche se sono in condizioni di difficoltà. Certe volte è inutile essere proprio premi della classe a tutti i costi, basta fare un lavoro ragionevole che però non perda di vista gli obiettivi di fondo della propria nazione. Noi vogliamo essere molto bravi, vogliamo avere i conti in ordine, ma partiamo da una situazione in cui dovremmo avere probabilmente degli obiettivi intermedi. Insomma, effettivamente sull'operazione è nello specifico? No, dico sulla Fondiaria, in effetti sono state fatte delle svalutazioni, delle pulizie di bilancio enormi, sia in termini finanziari sia in termini di business vero proprio, e questo poi ovviamente viene accentuato dalle dinamiche di mercato generali, in particolare quella della crisi di sistema italiana che ha avuto luogo tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, e per cui effettivamente è un gruppo che vale assai poco, e secondo me per uno straniero che deve entrare in Italia e comprare quota di mercato, cioè, è una valutazione ridicola. Quindi insomma il prezzo è interessante e questo renderebbe più appetitoso, appunto, per eventualmente per la Berkshire Hathaway, che è il fondo del finanziere, appunto, americano Warren Buffett, eventualmente mettere le mani, come dicevo, su questo gioiellino delle assicurazioni italiano che Fondiaria SAI deve dismettere dopo, appunto, l'integrazione con Unipol. Allora andiamo agli altri casi del giorno, vedremo appunto se si concretizzerà o meno questa offerta. Ansaldo STM più 2,40, un po' in movimento la Galassia Finmeccanica in questi giorni, Brasca. Ha sì, ragione? Anche questo era un gruppo. Beh, la SPS Ansaldo è un'ottima società. Finmeccanica ha patito di, diciamo, controversie di governance e anche di quell'acquisizione fatta 4-5 anni fa negli Stati Uniti, pagandola un po' cara, no? Allora, quando si fa un'acquisizione, proprio Buffett consiglia di cercare di pagare, se non un prezzo molto conveniente, almeno un prezzo giusto. E per una società come Finmeccanica voler entrare negli Stati Uniti pagando forte, insomma, poi se qualcosa va storto, ovviamente se ne pagano le conseguenze. Più abbiamo avuto tutti i vari problemi di governance della società stranoti, e quindi un po' tutto il gruppo ne ha sofferto, ma la STS Ansaldo è un'ottima società sia dal punto di vista della governance sia dal punto di vista del business industriale. Chiaro che altre società straniere hanno un sostegno dal sistema paese migliore. No, tra l'altro per quello che riguarda Ansaldo, poi a prescindere da tutte le considerazioni di carattere generale, oggi si vociferava dell'arrivo, lo dicono gli analisti di Equitasim, di operazioni straordinarie in Qatar, per cui chiaramente per società che diversificano così tanto il business, il rischio, evidentemente il mercato premia se non hanno un'alta appunto concentrazione dell'attività sul suolo domestico. Monte dei Paschi, le vicende quale conosciamo, adesso anche un manager che ha trafugato un sacco di soldi perché era vittima del gioco, ma questo lascerei perdere, forse non è proprio questo il motivo per cui ha perso così tanto oggi il titolo, più problema di spread. Telecom, Brasca, meno 4,48%, lo scorporo della rete e tanti altri problemi in consiglio di amministrazione ad inizio luglio. Sì, beh, Telecom oggi insomma, ha sofferto di una raccomandazione negativa di un intermediario americano e quindi vabbè, insomma, ci sta che soffra a singolo giorno. È chiaro che una società come Telecom, come Monte dei Paschi, come Fiat, come Finmeccanica non cambia del 4% di valore in un giorno, sono delle uscite o delle entrate di investitori che, diciamo, tra virgolette, in modo un po' speculativo, in modo sulla giornata, pensano di fare un movimento forte. Sulla Telecom Italia c'è stata prima un buon recupero dovuto a tutto quello che si pensava fosse realizzabile, con un po' di impazienza, no? Cioè sia il fatto della rete, del possibile assorbimento di tre, sia dello scorporo della rete. E poi c'è stato un rinvio e quindi un allontanamento dei tempi di questa ipotesi. Poi c'è stata le dichiarazioni del commissario europeo per la concorrenza e telecomunicazioni che vuole parificare le tariffe di roaming a livello europeo verso il basso. Insomma, il settore telecom è un po' un paradosso, nel senso che nessuno di noi può fare a meno di comunicazione, noi usiamo la comunicazione in modo molto intensivo, ma nello stesso tempo abbiamo un regolatore che impedisce alle compagnie di muoversi. Basta guardare quello che è successo negli Stati Uniti, dove il mercato si è mosso in modo autonomo e si vede come le compagnie di telecomunicazioni possono essere altamente redditizie. Qual è oggi il tema? Il tema oggi è che se la telecomunicazione ci fornisce efficienza e le società di telecomunicazioni hanno bisogno di investire sulle nuove infrastrutture, tipicamente quelle che investono sono gli ex monopolisti perché sono gli unici che hanno la copertura geografica e la forza finanziaria per farlo e anche le modalità tecniche per farlo. Ecco, se questo deve essere fatto, ovviamente come qualsiasi impresa privata ha bisogno che questo investimento abbia una redditività adeguata e in presenza di un regolatore che impedisce il libero dispiegarsi della concorrenza, Telecom non ha la possibilità di esprimerla al meglio, dice lei, che preoccupa gli investitori. Nel momento in cui fosse tolto questo ostacolo artificiale, ci sarebbe immediatamente una concentrazione di mercato, perché parliamoci chiaramente, ci sono degli operatori che oggi, se non ci fosse una spinta artificiale del regolatore, non esisterebbero più. Devo chiudere, Brasca, quindi è chiaro che ce ne sono troppi, ecco. Ecco, per essere sintetici, grazie a Roberto Brasca per essere stato con noi, vicepresidente di Acome ASGR. Volevo farvi sentire anche quello che ha detto stamattina, sempre a margine dell'assemblea di Assolombarda, Marco Tronchetti Provera, sul tema dei presunti patti occulti fra i soci nell'ambito del riassetto della Canfin e Pirelli. Vabbè, Tronchetti Provera ha detto: sono falsità gravi che turbano il mercato, l'unica cosa occulta è la ragione per cui vengono scritte, la Consob deve andare a fondo su questo. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio tra poco. Faircam, il tuo partner per soluzioni logistiche integrate. Scopri di più su faircam.it. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, traffico intenso attorno alle grandi città. A Roma, sul grande raccordo anulare, ci sono code per un incidente che coinvolge mezzi pesanti tra Roma Sud e Appia in carreggiata interna. In uscita da Genova sulla 10 ci sono circa 2 km di coda per un incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia. Sulla Firenze Pisa-Livorno siamo in Toscana, c'è un chilometro di coda a causa di un incidente tra Firenze Scandicce e la Strassigna verso Livorno. La 11 Firenze-Mare è chiusa per lavori tra la diramazione Lucca-Viareggio e l'innesto per la 12 Genova-Livorno in entrambe le direzioni. La riapertura del tratto è previsto per le 14 di domani. Sulla 14 Adriatica 3 km di coda per lavori tra Civitanova Marche e Loreto verso Ancona. Infine ci sono code per lavori di circa 4 km sulla 22 del Brennero in direzione di Modena tra Mantova Nord e Mantova Sud. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. I professionisti e le imprese devono pensare alla propria mobilità e il noleggio a lungo termine è la soluzione più intelligente. Carserver è la prima azienda di noleggio a lungo termine a capitale interamente italiano, con una rete di 20 filiali a gestione diretta distribuite su tutto il territorio nazionale. Filiali dove a prendersi cura dei clienti non è un call center, ma personale qualificato che Carserver mette a disposizione. Con una flotta di 25.000 veicoli di tutte le marche e un parco vetture sostitutive di oltre 2.000 veicoli a disposizione, Carserver tiene fede alla propria missione aziendale, la vicinanza fisica al cliente, al driver e alle sue esigenze. Per cercare la sede più vicina, carserver.it. Focus Economia. E stiamo andando ormai verso la chiusura, peraltro colpevolmente non vi ho ricordato che oggi Focus Economia termina prima, termina alle 18, perché avremo naturalmente la necessità, abbiamo il dovere anzi, di darvi tutte le notizie relative all'esito delle elezioni amministrative di questo weekend, per cui avremo uno speciale subito dopo il giornale radio delle 18. Adesso vi dicevo prima dell'assemblea di Assolombarda e naturalmente è stato anche l'occasione per il primo intervento ufficiale del neopresidente Gianfelice Rocca, che ha parlato delle politiche europee, del lavoro per i giovani, ha commentato i dati Istat di oggi sulla produzione industriale. L'ha intervistato per noi Valeria De Rosa. Io sono d'accordo che l'Europa si è messa su una strada complicata e che respira con il respiro delle elezioni tedesche, e che trovare adesso il bandolo di questa matassa, che secondo me è possibile, ma come dicevo, con una moneta unica, passa attraverso un approfondimento dell'unione bancaria, unione fiscale e un'unione politica progressiva. Io non riesco a immaginarmi facilmente un'Europa federale, ma penso che queste cose possano alleggerire moltissimo. Alleggerire ma non risolvere, perché il problema poi che dentro moneta unica i singoli paesi devono ritrovare la propria competitività, questa è una cosa che rimarrà comunque nell'Europa così come è costruita. E quindi è in mano nostra il tema di riprendere a essere competitivi, più innovativi, migliorare la produttività, avere una maggior capacità di essere flessibili nel mercato del lavoro senza che questo sia interpretato come un attacco ai diritti dei lavoratori, ma semplicemente come un pragmatico approccio al tema. Il principio della riforma Fornero, figurarsi se noi non aspetteremo che i giovani possano avere un contratto a tempo determinato, però io credo che anche i giovani si rendano conto che il mondo è cambiato moltissimo. Questo è un mondo dove una volta uno pensava di lavorare in una cosa e restare tutta la sua vita in quello stesso mestiere. Stiamo inseguendo un animale che parzialmente non c'è più, quindi io auspico un concreto lavoro che deve essere fatto non in senso generale ma sui singoli lavori, perché è diverso trovare soluzioni per l'Expo o trovare soluzioni in un settore come il call center o trovare soluzioni come i produttori di macchine e utensili. Io credo che noi dobbiamo riportare i giovani nelle fabbriche, i giovani dentro il lavoro. Questo è il tema principale. Se la riforma che propone Giovannini o la moratoria accompagnata da altri strumenti funzionerà, per me quello che conta è misurare tutto questo concretamente nel capire come è fatto il mercato e come riusciamo ad aiutare i giovani a entrare in questo momento nel mondo del lavoro. Poi sarà il momento della stabilizzazione. Presidente, stamattina l'Istat ha rivisto di nuovo al ribasso le stime sul PIL italiano. Il vero problema qui quindi è la produttività, la crescita di questo paese. Il tema della produttività è uno dei temi. La produttività è estremamente importante per i settori cosiddetti tradable, cioè sono i settori che scambiano le merci con l'estero, dove la competizione è molto forte. Nei settori servizi, dove evidentemente è meno grave e ricordiamoci che produttività in certi settori vuol dire anche meno lavoro per certi versi. Quindi noi abbiamo oggi la necessità di costruire, sono convinto che i servizi cresceranno, nei servizi alla persona, in molte attività che non sono sostituibili dalla information technology e così via. Quindi il tema del declino del nostro PIL si recupera solo con maggior fiducia, perché la domanda interna deve recuperare, con le imprese che riescono a essere più vincenti nel mondo, e penso che il circuito sarà più successo all'estero, investimenti, ripresa della domanda interna. Questo è un po' un circuito su cui noi oggi ci troviamo. Certamente la ripresa della domanda interna, che è possibile, che per esempio la Lombardia è un paese ricco, la città è ricco, tranne che le persone hanno deciso di risparmiare perché non hanno sicurezza del futuro. Nel momento che si invertissero queste aspettative, noi ci troveremmo di colpo in tutt'altra condizione. Adesso siamo nel momento più critico, anche il mondo non sta andando molto bene, quindi bisogna saper far fatica nei momenti difficili, sapendo che però dopo avremo una possibilità di decollare. Questo è il momento dei sacrifici. La fiscalità oggi è asfissiante sulle imprese e sul lavoro, quindi c'è un problema di rimodulazione del tema fiscale. Il tema fiscale evidentemente ha due corni: da una parte, da dove vengono le risorse per ridurre il carico fiscale. Io oggi ho citato tre fonti: una efficienza della pubblica amministrazione che è diventata ipertrofica, gigantesca, l'evasione fiscale che è ancora molto importante e la lotta alla corruzione. Questi sono tre pozzi in cui cercare risorse. Queste risorse le dedicherei soprattutto al mondo del lavoro e al mondo delle imprese, e poi c'è un generale tema, quando le risorse sono più scarse, di dove collocarle. Io credo che ci vadano più risorse a risorse ferme, più all'education e alla ricerca, cioè al futuro, e un po' meno al welfare. Questa è un puro ragionamento di chi deve decidere dove collocare strategicamente le risorse. E questo era Gian Felice Rocca, intervistato da Valeria De Rosa, neopresidente di Asso Lombarda. Con questa intervista si conclude qui Focus Economia. Adesso vi lascio il GR, poi lo speciale sulle amministrative. Da Deborah Rosciani, buona serata. Domani con Salva Danaio. Radio 24. La passione si sente.